Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Parlate ai figli di Israele. Questi sono gli animali che mangerete fra tutti quelli che sono sopra la terra: ogni ruminante che ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa. Soltanto questi non mangerete fra i ruminanti e fra gli animali dallo zoccolo spaccato. Il cammello, perché è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato, è impuro per voi. L'irace, perché è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato, è impuro per voi. La lepre, perché è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato, è impura per voi. Il maiale, perché ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa ma non è un ruminante, è impuro per voi. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri. Sono impuri per voi. Fra tutti gli animali che si trovano nell'acqua, questi mangerete: tutti quelli che hanno pinne e squame nelle acque dei mari e dei fiumi, tutti quelli che non hanno pinne e squame nei mari e nei fiumi, ogni biscia d'acqua e tutti gli esseri viventi che si trovano nell'acqua sono abominevoli per voi. Essi sono abominevoli e non mangerete della loro carne e terrete in abominio i loro cadaveri. Tutti gli animali acquatici che non hanno pinne e squame sono un abominio per voi. Questi considererete abominevoli fra gli uccelli e non mangerete, perché sono un abominio. L'aquila, l'ossifraga e la strige, il nibbio e le varie specie di rapaci, le varie specie di corvi, lo struzzo, la civetta, il gabbiano e le varie specie di sparvieri, il gufo, il martin pescatore e l'ibis, il cigno e il pellicano e la folaga, la cicogna, le varie specie di aironi, l'upupa e il pipistrello. Ogni insetto alato che cammina su quattro zampe è un abominio per voi. Soltanto questi mangerete fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro zampe. Quelli che hanno due zampe sopra i piedi per saltare sopra la terra, fra di essi potrete mangiare ogni specie di locuste, ogni specie di cavallette, ogni specie di grilli e ogni specie di acridi. Ogni altro insetto alato che ha quattro zampe è un abominio per voi. Da questi animali contrarrete impurità. Chiunque toccherà i loro cadaveri sarà impuro fino a sera. Chiunque solleva il loro cadavere lavi le sue vesti, resta impuro fino a sera. Tutti gli animali che hanno lo zoccolo spaccato, ma la cui unghia non è divisa e non sono ruminanti, sono impuri per voi. Chiunque li tocca contrae impurità. Fra i quadrupedi, qualsiasi animale che cammina sulla pianta dei piedi è impuro per voi. Chiunque ne tocca il cadavere resta impuro fino a sera. Chi ne solleva il cadavere lavi le sue vesti, resta impuro fino a sera. Sono animali impuri per voi. Fra gli animali che strisciano sopra la terra sono impuri per voi la talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il geco, il topo ragno, il ramarro, la tartaruga e il camaleonte. Questi sono impuri per voi fra gli animali striscianti. Chiunque li tocca quando sono morti resta impuro fino a sera. Qualsiasi cosa su cui cadessero quando sono morti è impura. Qualsiasi utensile di legno o vestito o pelle o sacco, qualsiasi utensile con cui si lavora, sia messo nell'acqua. Resta impuro fino a sera e poi è considerato puro. Qualsiasi recipiente di argilla entro cui cada uno di questi animali, tutto ciò che c'è dentro è impuro, e il recipiente lo romperete. Qualsiasi commestibile su cui cada quell'acqua è impuro, e ogni bevanda in qualsiasi recipiente si trovi è impura. Qualsiasi cosa su cui cada un loro cadavere è impura. Forno e fornello siano distrutti. Sono impuri e impuri siano considerati da voi. Però le fonti, i pozzi e i bacini d'acqua saranno puri. Chi tocca i loro cadaveri diventa impuro. Se un loro cadavere cade su una qualsiasi specie di semente da seminare, la semente resta pura. Se è stata versata dell'acqua sulla semente e cade su di essa un loro cadavere, la semente è impura per voi. Se muore un animale di cui vi potete cibare, chi tocca il cadavere è impuro fino a sera. Chi mangia di questo cadavere, lavi le sue vesti, resta impuro fino a sera. Chi trasporta tale cadavere, lavi le sue vesti, resta impuro fino a sera. Ogni animale che striscia sopra la terra è un abominio, non mangiatelo. Tutti gli animali che camminano sul ventre, che camminano su quattro o più zampe, o che strisciano sopra la terra, non mangiateli, che sono cosa abominevole. Non rendetevi abominevoli con un qualsiasi animale strisciante, e non contaminatevi con essi, così da diventare impuri. Io infatti sono il Signore Dio vostro. Santificatevi e siate santi, perché io sono santo. Non contaminatevi con qualsiasi animale strisciante sopra la terra. Sì, io sono il Signore che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Siate santi, perché io sono santo. Questa è la legge relativa alle bestie terrestri, agli uccelli e a ogni animale che si muove nell'acqua e a ogni animale che striscia sopra la terra. Ciò allo scopo di separare l'impuro dal puro, gli animali che si possono mangiare da quelli che non è lecito mangiare.